Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Se per guardare i dettagli di un oggetto molto piccolo ci vuole il microscopio, nel caso di un oggetto molto grande come una città ci vuole un macroscopio urbano. È quello che hanno pensato e anche realizzato i ricercatori del MOX, il laboratorio di modellistica e calcolo scientifico del Politecnico di Milano, con il progetto appunto Urban Macroscope, grazie al quale hanno potuto scattare, diciamo così, una fotografia senza precedenti di quanto accade nella capitale lombarda, fotografia basata sul traffico di telefonate e di tweet prevalentemente. Ma ci facciamo raccontare tutto dal professor Simone Vantini del MOX, che è stato uno dei protagonisti del progetto. Buonasera Vantini. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, qual è lo scopo principale di questo Urban Macroscope? Allora, lo scopo del nostro macroscopio urbano è studiare i fenomeni sociali che si stanno sviluppando nella città di Milano tramite l'analisi di dati che costituiscono, diciamo, il substrato digitale della città di Milano. Sono dati, come hai già detto tu, che vengono da Twitter, Foursquare, dati di traffico telefonico e così via. Tutti rigorosamente, tutti rigorosamente anonimizzati, ovviamente. Okay. Noi studiamo le caratteristiche del dato ignorando completamente. Per esempio, in che lingua è, non importa che cosa c'è scritto, no? Assolutamente, per esempio. Assolutamente, esattamente. Nelle telefonate sappiamo da dove partono e dove arrivano, ma non cosa è stato detto, ad esempio. Perfetto. Ecco, è esattamente come con il microscopio si cambiano le lenti per mettere a fuoco dei dettagli di vario tipo, anche voi avete messo a punto, diciamo, delle lenti informatiche. Noi abbiamo al momento sviluppato 4 lenti che trovate sul sito urbanscope.polimi.it. Partiamo dalla prima, City and the World. Sì, la prima lente, City and the World, parte dall'analisi di dati di traffico di telefonico su rete mobile, di fatto. Permette di avere una fotografia della città che ci dice con chi parla Milano e chi parla con Milano. Ecco, con il mobile, perché magari certe comunità usano molto di più il telefono fisso, penso a certe comunità africane, per esempio sudamericane. Qua tocchi un tema importante, tutti questi tipi di dati, che sono effettivamente la rappresentatività del dato. Che popolazione stiamo descrivendo con questo dato? Quindi bisogna ricordarsi bene di questo. Certamente. Se posso fare un micro esempio, giusto, curioso, sì? Il paese col quale parla più Milano è la Svizzera. Ok, cosa che non so se ci deve far felice o preoccuparci, ma vabbè, andiamo avanti. Non lo sappiamo, perché non sappiamo cosa gli certo, è detto con certo. La Svizzera. I secondi paesi sono più o meno a pari merito, il Regno Unito e la Francia, diciamo il quarto in classifica è la Germania. D'accordo, insomma, rapporti evidentemente con certo. Dentro l'Unione Europea. Vediamo la seconda lente, che si chiama Cities into Cities. Sì, questa lente si appoggia invece alla piattaforma Twitter, ai tweet che ogni giorno vengono rilasciati nella città di Milano. Per ogni tweet, diciamo, il dato che ci interessa è quando viene emesso e in che luogo della città e in che lingua. Abbiamo fornito 3 sottolenti che raccontano 3 facce di Milano, una descritta dai tweet in italiano, per cui la città tradizionale, un'altra descritta dai tweet che vengono scritti in inglese, la città del business aperta, diciamo, al mondo, e poi un'ultima molto interessante è invece quella riferita alle altre lingue, tutte le altre lingue che non siano italiano e inglese. Quindi comunicazione intracomunità, dentro la stessa comunità, magari, no, di un ecuadoregno che scrive in ecuadoregno, quindi si rivolge ai suoi. Sì, giusto. Anche qua sono venute fuori qualche risultato, diciamo, almeno inaspettato. Ad esempio, se pensiamo al giambellino, diciamo, tiriamo via le lingue che sono l'italiano e l'inglese, la lingua più parlata nettamente è il Tagalog, che è la lingua parlata nelle Filippine. Le altre due lenti hanno a che fare con i luoghi attrattivi, diciamo, della città. Sì, allora, queste due lenti, City Magnets and Top Venues, si basano su Foursquare, un social network un po' meno conosciuto, nel quale vari utenti fanno check-in i luoghi che vogliono rendere noti a tutta la comunità Foursquare. Un esempio che posso vedere, ad esempio, è l'effetto di Expo su questi dati, nella classifica Top Venues, dove vediamo le zone più cool, più check-inate nella città di Milano. Se passate da marzo, aprile a maggio, giugno, si vede benissimo come entrano in classifica tutti i padiglioni dell'Expo, l'albero della vita, che sono entrati subito in top list e ci rimangono dentro. E poi ci sono tutte le altre tipiche destinazioni turistiche di Milano che, a proposito, sono state indebolite alla fine o rafforzate dall'Expo, c'era questa diatriba. Sì, in realtà quello che osserviamo, almeno questi dati, che sono state rafforzate, sebbene in termini percentuali siano ovviamente diminuite, in termini assoluti il numero di presenze è aumentato. È aumentato, beh, bene, meno male. Prossima lente, ci state lavorando? Sì, si baserà su fotografie questa volta, provenienti da Instagram, e vedremo cosa la gente che sta a Milano fotografa. Quindi la Milano più fotografata, esatto. potremmo dire così. Va bene, grazie Vantini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.